24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Si ballava, io però non ho mai partecipato a nessun ballo per un vecchio fioretto di gioventù, ed accadeva quello che si può vedere in qualsiasi locale aperto al pubblico di ogni età. Posso quindi escludere con un'assoluta tranquillità che si siano mai svolte scene di natura sessuale. E così era Silvio Berlusconi, il 19 ottobre del 2012, ma in realtà per i magistrati è un po' diverso. Era il regista del Bunga Bunga, in attesa in uscita al film, tra poco DVD e tutte le sale. Era il regista, quindi insomma, non lo so, probabilmente sarà così. Cari amici di 24 mattino, sono le 6:34 minuti, questa è Radio 24, c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia ed è venerdì e dunque modalità e schema allegri, più innestato che mai. Dai, forza, dai che ce la si fa, dai! È lo schema allegri, la serranda. Il caffè volentieri a tutti quanti. Dai Nicole Minetti, dai caffè. Io non lo a tutti voglio quanti. Il caffè della Minetti. Tu continui che forse hai preso anche tu i suoi favori. Frozzate col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Come il dottor House. Va bene, eccoci qua. Oh, torna e voglio salutarla con grande affetto la migliore amica di Nicole Minetti dai banchi di scuola. Lia Celi, direttamente from Rimini Beach, eccoci sì, qua. Diciamo che la beach non è molto frequentata in questa stagione, sì, certo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Lia Celi. Voglio salutare Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi lo allegherete il DVD col regista del Bunga Bunga Berlusconi? L'abbiamo fatto a suo tempo, abbiamo fatto tutte le intercettazioni della vicenda, l'unico giornale in Italia che le ha pubblicate tutte. Ma adesso se è il regista uscirà il film anche. Adesso uscirà adesso questa storia, uscirà di tutto, così non mi meraviglierei neanche il film. Anche il film. Oh mamma mia, dobbiamo parlare di questo, cara Lia? Dobbiamo dire ancora qualcosa? Beh, di Berlusconi sappiamo tutto, anche, non so, ormai la descrizione delle parti anatomiche, manchino solo quelle. No, ma guarda, io, come ti ho detto già un'altra volta, quando ripenso a questo periodo del Bunga Bunga di Ruby, soprattutto in una settimana come questa, è stata veramente molto pesante da tanti punti di vista, è come rimpiangere un tempo felice quando potevamo veramente preoccuparci dei festini di Berlusconi, davano un tocco così di frivolezza, sì, adesso sono argomenti leggeri, sono argomenti che passati questa settimana. Infatti la cosa è che a parte Repubblica ci apre, ma si sa, ma non c'è un giornale che ci apre, giustamente, no Massimo, anche voi aprite con l'IMU. Cose che interessano un po' di più gli italiani, in effetti. Però voglio dire, per mesi non è stato così, forse perché era presidente del Consiglio. Consiglio e quindi bisognava abbatterlo. Adesso che in qualche modo è stato abbattuto, la cosa diventa meno interessante. Meno interessante. Per chi ne ha fatto più che altro una ragione sociale. La cosa che magari si può dire in più oggi rispetto ad allora è che una telefonata a Berlusconi è costata 6 anni e alla cancellieri un ministero. Ed è rimasta anche lì. Ecco il paragone. Non è proprio la stessa situazione, dai. Un potente, un ministro, un primo ministro che telefona a un funzionario pubblico chiedendogli di fare una cosa che tra l'altro è prevista in entrambi i casi, è prevista che si possa fare per altre cose, ma che in un caso viene letta come concussione, in un altro invece come semplice, poteva così, farne a meno, però dai. La vera differenza era che lì si trattava veramente della figlia di Ligresti e non della nipote di Bubar, quindi diciamo che la parentela era vera. Almeno la parentela era vera, effettivamente. In un caso era una persona che era in carcere per dei reati, in un altro era una persona che non era neanche in carcere neanche per un reato. Sempre per fare un paragone, ecco, allora si parlava di questo rapporto con una minorenne, però tutto sommato consenziente. Oggi abbiamo le baby squillo dei parioli, che invece è una situazione veramente umanamente molto più tragica e, se vogliamo, violenta. Insomma, qui in Italia ci abbiamo sempre la qualità di peggiorare le cose. Per questo, questa vicenda così del Bunga Bunga sembra appunto quasi leggera, insomma, un po' più perdonabile rispetto a fatti di cronaca che ci rattristano molto di più. C'è il buon Berlusconi che ormai racconta di retroscena, pare sia terrorizzato da questa storia del carcere. Ma Massimo De Manzoni, ma è davvero possibile il carcere? A parte che sì, forse... Io ne sono assolutamente convinto. Io sono assolutamente convinto che ci sarà qualche pubblico ministero che vorrà passare nei libri di storia e che quindi... Che chiede l'arresto di Berlusconi dopo l'eventuale decadenza, diciamo. Sì, ma comunque può sempre telefonare alla cancellieri e di essere il figlio del padre di Berlusconi. Può chiamare chissà se chiamerà la cancellieri, no, la buttiamo in burla. Ma in realtà tu, Massimo, sei convinto davvero così? Però sì, voglio dire... Io ne sono assolutamente convinto che un pubblico ministero tenterà di cioè, ma tecnicamente, cioè, io poi, dico, ma tecnicamente come può accadere? Nel senso che tecnicamente non ha neanche l'età per andare in carcere Berlusconi. No, ma non è che una carcere preventiva è tutta un'altra storia. Allora ti arrivano i carabinieri a casa, ti portano via perché e poi ti danno il domiciliare di arresto. Dopodiché si parla, si discute il Tribunale della Libertà. Probabilmente sarebbe una cosa di un mese, forse, non lo so. Ma anche no, ma forse anche due giorni, cioè, verrebbe messo Scaglia, subito. Silvio Scaglia è rimasto agli arresti per un anno, preventivi, prima di essere... Ma d'accordo, ma oltre i 70 anni in carcere non si va, quindi al limite uno viene fermato questo, e poi in fase di... Anche questa è una leggenda metropolitana. Allora, non è proprio vero. Tanto è vero che abbiamo avuto un giornalista in carcere per 20 giorni negli ultimi tempi, senza che nessuno se ne accorgesse, peraltro Giorgio Clave aveva 80 anni. Sì, questo è vero. Questo è vero. Pure malato di tumore per quello, per cui in Italia succede... Succede di tutto, però è finita sui giornali. Cioè, immagino che di fronte a una richiesta eventuale di arresto a Berlusconi si scatenerebbe putiferio anche dal punto di vista politico. Comunque, insomma, non mettiamo troppo... il carro davanti ai buoi. Poi comunque dopo il Polo della Libertà e il Popolo della Libertà, anche il Tribunale della Libertà, insomma, diciamo che la sequenza funziona. Comunque ci sono gli italiani che sono in giro a dire Mimu non Mimu, Mimu non Mimu. Oh, ma questa storia dell'Imu, se venisse spiegata nel 90% dei paesi appena appena sviluppatici, io ho appena twittato, ci guarderebbero in faccia come si guardano i deficienti, proprio è la roba più... Tu lì pagherai l'Imu? Paghi, beh, certo. Paghi l'Imu, sì. Cioè, nel senso, paghi l'Imu se non lo tolgono, non lo so, se lo tolgono. Hai capito? Il tuo commercialista. No, non essendo ancora così. Così una suora o un sacerdote, credo che dovrebbe. Vabbè, insomma. Mamma mia, potrei, ragazzi. Però potrei venire a fare consacrare la mia casa e... No, ci sono commercialisti che vengono portati via con la camicia di forza, caro Massimo, che non capiscono più niente cosa devono fare, impazziscono, vengono mandati nelle cliniche perché ma che stato è quello in cui da sei mesi si parla dell'Imu, da sei mesi, una tassa che vale 4 miliardi all'anno, briciole dal punto di vista delle... se ne parla da sei mesi. Ma paradossalmente ci sono sempre più esigenze che fanno in modo che lo Stato debba sborsare miliardi. Adesso c'è l'emergenza in Sardegna, dove si troveranno, insomma, la copertura finanziaria, ma boh, non si sa. Tu, Massimo, come ti dici che finirà questa storia dell'Imu? La pagheremo oppure no? Ma è impossibile prevederla, anche perché questa legge finanziaria di stabilità. Se voi leggete i giornali, questo non va neanche a onore dei giornali di cui io sono un rappresentante, purtroppo, però noi facciamo anche quello che, cioè, registriamo anche quello che succede. Io negli ultimi tempi, se metti insieme i titoli d'apertura, su tutto, oggi per esempio, ieri tutti i giornali titolavano emendamento degli stadi, si potranno costruire nuovi stadi, eccetera, eccetera. Oggi no. Ma, oggi stamattina verso il ritiro degli emendamenti. Sì, dell'emendamento degli stadi. Ma come le privatizzazioni? Così, Letta, subito le privatizzazioni. Oh, ma subito, mica come negli ultimi 40 anni di annunci. Subito, adesso no, le no, facciamo prima subito. Ma la posizione delle province, Alessandro. Lo sì, sai, beh, vabbè, si sa. Ah, devo dire. Quella è entrata nella leggenda. Si ormai chiude oggi la 29ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Quindi non toccatemi questa. Ma è perché le regioni. Nuovo elenco di spese, ora tutti sulla regione Piemonte, indagato anche Cota, videogame, scontrini al fast food alle 3 del mattino, che poi sono quelle cose che ti si piantano sullo stomaco. Ma poi era per la moglie incinta, probabilmente, sai queste voglie sì, non lo so. Penne, cravatte, ma soprattutto stravince il consigliere Angiolino Mastrullo, che ha fatto pagare alla regione, quindi soldi di tutti, 13.000 euro di affitto di un pullman per andare alla convention del Popolo della Libertà a Roma a vedere Berlusconi. Ma la cosa bella non è finita, che ha pagato l'affitto, ma ha detto: non siamo partiti. E come non siamo partiti? Non si è presentato nessuno alla partenza, nessuno lì a Celi, nessuno si è presentato. Ma 13.000 euro all'autista e all'azienda che aveva affittato il pullman bisognava pur darglieli, e ovviamente chi ha pagato? Tutti noi, la regione Piemonte. Questo... Ma tu avresti pagato più volentieri se ci fossero andati poi alla fine? Allora. Non lo so, almeno la soddisfazione di avergli venduto due pentole, di avergli fatto vedere Berlusconi, e uno lo racconta, ho detto sono andato a Roma in gita, ho visto il Colosseo, Berlusconi, due pentole e 13.000 euro pagati da tutti, invece queste no, non lo so. Che dobbiamo fare? Lì, Massimo, che dobbiamo fare? Nuclearizzare le regioni? Non lo so. Beh, non sarebbe una cattiva idea chiudere anche le regioni, visto che come le abbiamo realizzate sono diventati dei centri di spesa duplicati rispetto allo Stato centrale, già in maniera normale, senza le spese queste di cui stiamo parlando, che sono una roba fuori dalla grazia di Dio. Bisognerebbe chiudere, sì, bisognerebbe fare tante cose, ma bisognerebbe anche finirla di dare finanziamenti ai partiti, come un referendum aveva peraltro stabilito, come ricorderete, e invece noi non solo gli diamo in generale come finanziamento ai partiti nazionali, ma poi diamo i finanziamenti ai gruppi regionali, e questi se li usano per i fattacci loro, così. Cene di lavoro, ma erano a lume di candela, sto leggendo adesso. Sì, erano a lume di candela, è chiaro. Beh, è ovvio, sì, si fanno queste cene di lavoro a lume di candela, sono le migliori. Infatti, guarda, una soluzione, per esempio, per avere più asili nido è che, non so, i bambini fondassero un partito, in modo che potrebbero avere dallo Stato finanziamenti per avere appunto nidi, strutture che mancano. Questa è l'unica soluzione. Potrebbe essere quella. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo con Massimo De Manzoni e Lia Celi. 24 mattino. Civati e il PD hanno fatto la solita figura di Emmental, perché sono dei pagliacci, dei buffoni, come la Camusso ai tempi della riforma Fornero. La medicina misericordina, ma sa con che cosa fa il paio? Col cacao maravigliao. Due idee idiote per un popolo bue. Alco che spendere più! Spendere più! Dov'è finito lo stornellator cortese? Io non riesco ad andare a lavorare senza lo stornellator cortese. Devo lasciare un messaggio molto importante tra i cancellieri. Il Movimento 5 Stelle è una compagnia teatrale di buffoni. Con tutti i problemi che ci sono in Italia, non si divertono a squillare i cellulari come bambini. La parte loro padrone è il loro capo comico. E Milan, forse non lo sai, ma accanto a Franco Fiorito e Batman e al suo socio Carlo Taormina e Robin, adesso c'è Sora Batgirl, che pare si chiami Anna Maria Cancellieri. Sì, mi pare. Vabbè, io te l'ho detto. Ciao. Ho rotto un vaso e ho provato a incollarlo, ma non sta insieme. Mi sapresti dire la colla che usa la cancellieri per stare attaccata alla poltrona? Grazie. per l'inquilino del Quirinale con accompagnamento bandistico. Eccetera, eccetera. Saluti. Vabbè, oggi era a livelli quasi impagabili. Quella che gli si è rotto. Sono meravigliose, stanno migliorando ma proprio. Ma guarda che sono un popolo incredibile. Quella che gli si è rotta il vaso e chi non sa vuole la colla della Cancellieri per attaccarlo. Vabbè, ma so. Allora, Massimo De Manzoni, voi chiamate molto Laura Boldrini, presidente della Camera. Siete i fan più accaniti al Libero di Laura Boldrini. I cantori, ah ecco appunto l'appello allo stornellator cortese, torna che ci regala ogni volta uno stornello in romanesco fantastico. Lunedì sarà la giornata contro la violenza delle donne, fa questa intervista sulla stampa e dice: care bambine, fin da piccole, ribellatevi! Io e mia sorella l'abbiamo fatto contro i nostri tre fratelli che non volevano mai apparecchiare la tavola e invece noi ci siamo imposte e abbiamo detto anche loro e adesso sono degli uomini che fanno i loro doveri a casa. Oh, mica come. Quindi ribellatevi fin da bambine. Abbiamo minacciato sciopero, ha detto. Sì, perché il lavoro andava diviso in maniera uguale. Abbiamo minacciato lo sciopero. Era già una di lotta di Senna. È nata così. Già è nata da così. Piccola. Già da piccola. Uno non può diventare Boldrini. O nasce Boldrini o nasce niente. Lia Ceni. Io stavolta non sono sicuramente una cantora, una cantrice di Laura Boldrini. Ma su questo sono assolutamente d'accordo. Attenzione, perché Lia Ceni ha quattro figli. Come sono divisi? Maschi, femmine? Anch'io ho tre femmine, però maschio solo. No, poveraccio. Essendo in minoranza, le femmine hanno diritto di imporre la loro volontà. Però ecco, la differenza è che neanche le mie figlie apparecchiano. Sono ribellate già da tempo, ma non contro i maschi, ma contro l'apparecchiare. Contro l'apparecchiare. Lì è proprio anarchia a casa Lia Ceni. C'è stata una deriva anarchica. Siamo ancora più avanti della Boldrini di Sel. Sì, esatto. Si mangia direttamente su quei piatti di carta sul divano, perché nessuno si... Cioè, dobbiamo scioperare noi genitori contro i figli che non vogliono apparecchiare. Vabbè. Comunque, insomma... Comunque, al di là di tutto, mi sembra un discorso tutto sommato... mi sembra un discorso legittimo. Ma si fa per scherzare. All'asilo le bambine dovevano apparecchiare per i maschietti. Ma sì. Io all'epoca mi rifiutai. Ma guarda, il mio piccolo Mattia, di 5 anni, torna tutto contento quando all'asilo tocca a lui fare il cameriere e apparecchiare. Quindi sono cose. C'è un'evoluzione. Ma mi fa un po' ridere l'appello, care bambine, ribellatevi. Vabbè. Le bambine non leggono la stampa. Sì, esatto, esatto. Adesso tutte le bambine con la stampa. Vi faccio sentire solo Matteo Salvini in chiusura sull'euro, il nostro amico Matteo, sentite cosa dice. Sopra la testa di tutti c'è a monte, ci sta un crimine contro l'umanità che si chiama Unione Europea e si chiama euro. Cioè l'Unione Europea il crimine contro l'umanità. Il crimine contro l'umanità, l'Unione Europea e l'euro. Vabbè, non c'è gran tempo per commentare. Certo che i toni sono sempre pacati. È del nostro grande amico, fratello rossonero, Matteo Salvini. E quindi chiudo sempre con l'appello e lo schema Allegri. Dai che è venerdì, dai, forza! Allora, saluto Lia Ceni, saluto Massimo De Manzoni. Alla prossima, è tempo di Giornale Radio. La vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere un'ombrella, l'ombrella, ti rubano la testa. Sembra un giorno di festa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali in quello che è venerdì e quindi il giorno di chiusura della 29esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché della 29esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Mannaggia, si sono chiuse e con un nulla di fatto. La trentesima, chissà, sarà quella buona? Lo scopriremo. Oggi parleremo di che cosa? Andremo a cercare di capire un giallo che c'è a Caserta, cari ascoltatori, dove racconta qualche giornale ci sono dei dirigenti pubblici che guadagnerebbero 290.000 euro l'anno, quindi più di Angela Merkel. È davvero così? Andremo con il sindaco di Caserta alle 8.15. Poi ricordate che c'era un altro sindaco che aveva fatto una raccolta firme per riaprire le case chiuse, il tema della prostituzione? Che fine ha fatto quella notizia? Oggi ve lo raccontiamo alle 8.30. Sono state raccolte o no queste firme? Manteniamo un po' il giallo e poi ne parliamo alle 8.30. Ora andiamo a sfogliare i giornali. Venerdì 22 novembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, avete sentito con gli stati generali sulla cultura, fisco leggero per cultura e ricerca, questo è il titolo di apertura e varie pagine dedicate a questo tema. Mentre per il Corriere della Sera, IMU e acconti, labirinto fiscale e Libero ci riprendono per l'IMU. Il giornale, rinviato lo stop all'IMU, soldi solo ai clandestini. Il Messaggero invece mette un freno al redditometro in prima pagina. Solo Repubblica e Il Fatto Quotidiano aprono invece sulle motivazioni della condanna a Berlusconi per il caso Ruby, mentre ricordate, mesi fa o anni fa erano pane quotidiano ed con paginate per tutti i quotidiani. Repubblica, Ruby, le bugie di Berlusconi, mentre Il Fatto Quotidiano, decadenza e prostituzione, Berlusconi trema, mi vogliono dentro. La Stampa, lo Stato vende per 12 miliardi, l'Unità, via libera alle vendite di Stato, Il Secolo, la guerra delle privatizzazioni, Avvenire, lo Stato venderà asta da 12 miliardi, Il Manifesto la traduce così, una sporca dozzina, sono i miliardi che il governo vuole fare con le privatizzazioni. Oh, però voglio partire dai nuovi sviluppi, e sono sviluppi che altro che mani sul volante, altro che mani sul manubrio se guidate una bicicletta, altro che tazzine del caffè bollente da appoggiare. Udite, udite, l'ultima della regione Piemonte. Sempre spese loro, soldi nostri, continuano le inchieste. Beh, Repubblica intanto fa sapere che anche il presidente della regione Cota è indagato, rimborsati fast food e videogame, io onesto, ma i tabulati del cellulare lo incastrano. Pagina 19 di Repubblica, Ottavia Giustetti e Sara Martinenghi raccontano che appunto per spese circa 800 euro al mese per fast food alle 3 del mattino, giochi per bambini, fiori, penne, cravatte, insomma, per queste spese che deve giustificare anche il governatore del Piemonte Roberto Cota è indagato. E lui ha detto: io per esempio il fast food alle 3 di notte non ero lì, non posso essere stato io, non mi trovavo lì in quel posto in quel giorno, ma racconta Repubblica, gli investigatori hanno intercettato le celle telefoniche, chiamate, numeri, tempi, precise localizzazioni. Roberto Cota per la procura ha mentito, il suo telefono squillava e suonava proprio nell'area di servizio in cui qualcuno quel giorno comprava prodotti alimentari. Vabbè. Ma l'ultima è proprio questa della regione Piemonte sulla Stampa, e qui tenetevi forte, Nicolò Zancan racconta, pagina 9, in autobus da Berlusconi pagava la regione. La vicenda è del consigliere Angiolino Mastrullo, uno dei 43 consiglieri della regione indagati. Sta per essere inviato a giudizio, 64 anni, giornalista, imprenditore, arriva dai socialisti, è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte, gli contestano spese per 39.000 euro in ristoranti, 8.700 euro per televisori, cuffie, gioielli, articoli per animali, occhiali, valigie in pelle, biglietti per le partite, ma anche questo rimborso davvero particolare, l'unico del suo genere, e cioè 13.300 euro per organizzare una trasferta a Roma in pullman in occasione del Congresso Nazionale del Popolo della Libertà del 30 giugno 2011. E già qui c'è da dire la stranezza della spesa. Ma poi c'è per un convegno di un partito, facendo pagare tutto l'affitto del pullman alla regione. Ma soprattutto non è finita! Il pullman non partì neppure quel giorno. Perché? Perché le persone che avevano detto veniamo a Roma non si presentarono alla partenza. il viaggio saltò perché non si presentò nessuno alla partenza, ma ormai il pullman era affittato e quindi andava pagato con 13.300 euro pagati dalla regione. In estrema sintesi, scrive la stampa, il viaggio fallimentare dei simpatizzanti volontari PDL che dovevano andare a sentire Berlusconi è stato pagato con soldi pubblici per evitare controversie legali con l'autista del pullman stesso, inferocito dal mancato introito, un piccolo spaccato di vita politica. Voi vi rendete conto, sì o no? Vi rendete conto, cari ascoltatori, sì o no? Rimango sulla stampa, dove Laura Boldrini, presidente della Camera, fa questa dichiarazione. Sentite bene, in virtù dell'avvicinamento della giornata contro la violenza sulle donne di lunedì prossimo, fa un'intervista. Donne, cominciate a ribellarvi da bambine. Ebbene sì, la battaglia per la parità si inizia fin da piccole. Le figlie femmine devono ribellarsi, parla la presidente della Camera, Laura Boldrini, dire che così non va se i genitori non garantiscono parità. Io e mia sorella l'abbiamo fatto. In casa eravamo in cinque, tre maschi e noi. Mia mamma ci educava seguendo i soliti stereotipi. Noi dovevamo aiutare, loro no. Ci siamo ribellate. È stato un moto autonomo. Abbiamo minacciato sciopero perché il lavoro andava diviso in misura uguale tra tutti. La pubblicità. 24 mattino. Eccoci qua alle 7:34 minuti. Una precisazione sulla questione dell'autobus pagato alla regione, perché molti ci scrivono: ma come, un autobus costa 1.000-1.500 euro al giorno, non di più, 13.000 euro. Sì, ma perché 13.000 euro è la proposta che è stata fatta dalla società che l'aveva affittato per evitare un contenzioso legale, perché ha proposto 13.000 euro per chiudere tutta questa vicenda, quindi ci hanno anche guadagnato, perché se no altrimenti andavano per vie legali e quindi sarebbe costato di più da avvocati, allora l'hanno chiusa così, con 13.000 euro. Di un affitto di un pullman mai partito per la convention di Berlusconi, pagato alla regione Piemonte. Da tutti voi, cari amici piemontesi, un centesimino a testa, o un po' meno, ma una parte l'avete pagata anche voi. Allora, la vicenda Berlusconi, perché sono state depositate le motivazioni della condanna in primo grado a Silvio Berlusconi, il caso Ruby, condanna a 7 anni. Una vicenda che fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, sarebbe stata paginata sui giornali. Oggi molti giornali non ci aprono neanche, sono solo un paio, Repubblica e Il Fatto Quotidiano, che aprono su questa notizia. Le motivazioni sono raccontate da Luigi Ferrarella, pagina 6 del Corriere della Sera. Con Ruby, rapporti in cambio di soldi, Berlusconi abusò della sua carica, questo è il titolo. Scrive Ferrarella, nel motivare la condanna dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi a 6 anni per concussione, 1 anno per prostituzione minorile con la 17enne marocchina Ruby, le 326 pagine dei giudici chiedono ai PM di valutare 32 testi della difesa per falsa testimonianza o sistematica attività di inquinamento probatorio dal 6 ottobre 2010. La stessa Carima ha mentito perché dall'imputato, pagata per recitare a fronte di una promessa di 5 milioni, un copione concordato con l'emissario di lui, evocato in una intercettazione. Insomma, secondo i giudici, questa è la motivazione della condanna. Berlusconi era a conoscenza della minore età della ragazza, era in qualche modo il regista del Bunga Bunga cosiddetto. Anche Emilio Fede, è allora direttore del TG4, era a conoscenza della minore età della ragazza, e Berlusconi ebbe almeno 2 volte rapporti sessuali, nonostante Ruby abbia smentito al processo. Insomma, queste sono le motivazioni della condanna. Fa sapere il Corriere che per un giorno il centrodestra diviso si riunisce in nome della solidarietà a Silvio Berlusconi, un cavaliere che viene dato a pagina 9 del Corriere in trincea. Furioso come mai lo è stato, racconta Paola Di Caro, indignato, umiliato per parole che vengono usate solo per distruggermi, menzogne assolute, visto che sarei stato definito il regista del Bunga Bunga, organizzatore di attività prostitutive. insomma, il premier in carica di allora, che compiva atti sessuali con minorenne essendone perfettamente consapevole. Non parla Silvio Berlusconi, anche perché Repubblica fa sapere non parla perché teme, o meglio, questo lo scrive il Fatto Quotidiano, teme di finire in carcere. Ora Berlusconi ha paura di finire in carcere, per questo tace, titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano, con il resoconto politico di Fabrizio D'Esposito. Berlusconi, per la verità, è preso impegnato anche per la riorganizzazione del partito. Secondo Repubblica, c'è questa indiscrezione a pagina 4, avrebbe scelto l'uomo che dovrebbe guidare Forza Italia. Non si tratterebbe di una scelta politica e quindi dei cosiddetti falchi, ma la svolta del cavaliere: non voglio politici al vertice. Il coordinatore sarà Giuliano Adreani, un nome che magari non dice molto ai più. Carmelo Lo Papa racconta: avrebbe scelto Giuliano Adreani, classe 1942, amministratore delegato di Mediaset della concessionaria pubblicitaria Publitalia, è il RAS degli spot, capace in 20 anni di portare a casa una quantità di milioni difficilmente quantificabile, sempre presente ai pranzi del lunedì di Arcore, dirottato dal padre e da Marina a caccia di risorse pubblicitarie anche per Mondadori. È a lui, al polso di ferro, al manager di primo livello, che l'ex premier vorrebbe affidare il coordinamento operativo di Forza Italia. Non ne parla se non con pochissimi, ma la notizia ha già fatto il giro, suscitando tra l'altro l'irritazione di quasi tutti i big della politica, perché sarebbe una scelta in qualche modo manageriale più che una scelta legata ai cosiddetti falchi. Questo per quel che riguarda Silvio Berlusconi, sia le vicissitudini giudiziarie sia le questioni politiche. Questioni politiche che nel PD invece sono l'ennesimo giorno in qualche modo di stoccate di Matteo Renzi nei confronti di Enrico Letta. Ieri Renzi, in una delle sue innumerevoli apparizioni tra TV e radio, ha detto: sulla vicenda cancellieri ha vinto il vecchio Partito Democratico. Insomma, continua a prendere in qualche modo le distanze da quello che dovrebbe essere il PD dal 9 dicembre. PD che invece è travolto anche dalla vicenda di Salerno, dove Renzi ha vinto con il 98%, ma dove si indaga per denunce dei cuperliani su possibili tesseramenti falsi, gonfiati, addirittura indagherebbe l'antimafia. Il sindaco De Luca di Salerno, intervistato da Concita Sannino su Repubblica, dice: non mi dimetto anche se indagato, c'è strategia della diffamazione. Io il dominus, sono il dominus di me stesso al limite, e con difficoltà. Ha vinto Renzi a Salerno con il 98% e allora questi sono impazziti. Guardi, la volgarità offende chi la usa, non chi la subisce. Qui c'è una realtà di PD tra le poche al sud, fatta di correttezza, militanza, tessere non gonfiate e non finte, di partecipazione. Penso di rappresentare un'esperienza fatta di risultati, rigore spartano, correttezza e trasparenza. Sì, ma a Salerno è successo qualcosa di strano, fa sapere Repubblica. A Salerno ha avuto il comune il 75% dei voti tra tutti i cittadini. È immaginabile che tra i soli il PD si arrivi oltre il 90%. Il problema vero non è questo, è che a votare per Cuperlo sono andati in 50. Insomma, questioni problematiche all'interno del Partito Democratico per quello che succede a Salerno. Ma io voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno, l'ottimista. Buongiorno, Mauro, buongiorno. Meazza. Buongiorno, ma io l'ho twittata poco fa: se spiegassimo questa storia dell'IMU nell'80% dei paesi mondiali, ci guarderebbero come si guardano i deficienti e ci riderebbero in faccia. Insomma, la vicenda dell'IMU ancora lì, i miei due urini ci sono. Che succede? Tutto rinviato. Quanto tempo ho? Un paio d'ore? No, per carità. Ecco, allora brevemente, aspetto martedì. Senza fretta. Aspettiamo, perché anche la scadenza, adesso vediamo se dobbiamo toccacciarla o meno. Comunque, il senso è: IMU prima casa, stiamo cercando 900 milioni. Ecco, se ce li hai, fai un piacere, usciamo da questo i due euro sono lì, appunto, sono quelli a disposizione. Può sempre essere qualche cosa. stiamo cercando 900 milioni, però c'è l'impegno, lo cancelliamo. Tutto il resto, IMU seconde case, IMU capannoni, negozi, eccetera, eccetera, eccetera, quello bisognerà pagare, adesso vediamo come, perché poi i comuni ovviamente sono in fibrillazione, i CAF pure, i professionisti, è già un po' di giorni che ne parliamo, sono abbastanza agitati, sì. E comprensibilmente devo dire che anche noi contribuenti nel nostro piccolo tranquillissimi proprio non siamo. Ma però... è vero che ha portato via dei commercialisti con la camicia di forza per portare in clinica? No, perché non te lo posso confermare, ti dico che le lettere che pubblichiamo anche oggi su Sole 24 Ore, sai che abbiamo aperto una casella mail che abbiamo intitolato SOS commercialisti, chioccioleSole24ore.com, e ci arrivano appunto queste lettere di disperazione, quasi dice non so più come spiegare al mio cliente cosa deve fare con l'acconto IRPEF, l'acconto IRES, la saldo IMU. C'è anche una difficoltà appunto di spiegare, io ti ho detto prima, se mi dai un paio d'ore io forse qualche punto fermo riesco a metterlo, forse. Ma non è detto appunto, quindi forse attendiamo martedì e vediamo, perché lì Letta ha detto rinviato a martedì, aspettiamo martedì. Ma intanto oggi, guarda, su Sole 24 Ore tu hai comunque un quadro delle decisioni prese o rinviate, ti facciamo su 3 pagine ovviamente, perché quello spazio ci vuole, ti assicuro è ridotto al minimo. Ti spieghiamo come si stanno configurando tutte le situazioni e poi giorno per giorno, naturalmente alla radio, al sito e ovviamente sul quotidiano, ci facciamo forte, sì. Cerchiamo di spiegare. Non c'è pace, oggi, guarda, non c'è pace, parliamo, tra l'altro, Mauro, anche del redditometro, no? Che anche lì... No, aspettiamo, perché al garante non piacciono le medie Istat, adesso questa è una cosa un po' articolata, si dovevano usare dei valori medi dell'Istat, poi le entrate avevano detto vabbè li useremo ma solo in un secondo momento, il garante dice no, non va bene, non potete fare ricorso a dei valori medi Istat per stabilire le spese medie di una persona, allora bisogna correggere di nuovo sto redditometro, guarda, lo dice bene, lo dicono bene Kerchi e Parente oggi sul Sole, da maggio 2010 c'è questo strumento di accertamento, fa molta preoccupazione, ma se viaggerà poi una volta avviato con questa stessa velocità, diciamo che sarà qualcosa che vedranno i nostri figli, perché non abbiamo ancora potuto coglierne l'efficacia. Un'altra diciamo questione. Così. Ma parliamo di cultura, dai, che è stata l'apertura della sole, cultura, certo. C'è stato anche questa ipotesi, insomma, di fare un credito d'imposta per la cultura. Sai che abbiamo... mi sono preso dei dati perché mi fanno impressione, abbiamo meno addetti alla gestione dei beni culturali neanche la metà di quelli tedeschi, e vabbè, non vorrei parlare dei musei, ma trovi tutti i dati nelle pagine del Sole 24 Ore, abbiamo dei dati di visitatori un po' imbarazzanti, sapendo poi la ricchezza dei nostri musei, insomma, rispetto ai concorrenti, no? No, ma è chiaro. A Londra, Parigi, eccetera. No, ma è chiaro, non sapere valutare e valorizzare la cultura è stato uno dei temi, chiaramente, ieri degli Stati Generali. Mauro, io ti devo salutare perché altrimenti sforiamo sul traffico. Intanto ti do appuntamento chiaramente a lunedì prossimo. Forse ritorna il campionato questo weekend, chi lo sa, stiamo a vedere. Intanto le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E io tra l'altro rimango su Sole 24 Ore perché c'è una pagina che voglio segnalare di Fabio Pavesi che riguarda l'ATAC, l'azienda dei trasporti municipali di Roma. E già il titolo è tutto un programma per l'ATAC, una voragine da quasi 1,6 miliardi. È la più grande azienda di trasporto pubblico in Italia, a livello contabile un pozzo senza fondo. Anche quest'anno l'ATAC di Roma chiuderà in perdita per almeno 200 milioni di stima. Un caso tutt'altro, dato che negli ultimi 10 anni non c'è stato mai un bilancio inutile. Se si sommano i 200 milioni di buco di quest'anno alle perdite di 2011 e 2012, siamo a 500 milioni di rosso in 3 anni. Ma come dimenticare la maxi perdita del 2010 di 319 milioni e quella del 2009 da 91 e così via. un decennio costato 1,6 miliardi di perdite cumulate, una cifra mostruosa, più delle perdite da 1,2 miliardi della disastrata Alitalia. Il costo è già stato pagato una volta dalla collettività, nel 2010 ATAC si è mangiata tutto il patrimonio e due anni fa è stata ricapitalizzata per un miliardo, altri due anni come il 2013 e ATAC sarà di nuovo senza capitale. Vista così lo scandalo della truffa dei biglietti falsi che sta agitando la città e prima ancora la parentopoli delle assunzioni facili, appaiono solo la punta dell'iceberg di un sistema malato in profondità. Inizia così l'articolo, un'intera pagina sull'ATAC e su il buco da 1,6 miliardi in 10 anni, ha perso più di Alitalia, la municipalizzata dei trasporti di Roma. A proposito di finanza, c'è una sorta di, tra virgolette, rivolta nei confronti del commissario per la spending review Cottarelli. Il ministro Lorenzin della Salute annuncia sul Sole 24 Ore risparmi per 15 miliardi in 5 anni, ma secondo un retroscena di Repubblica, a firma Francesco Bei, tre ministri contro Cottarelli. E De Girolamo addirittura dice mi dimetto all'annuncio di possibili tagli del tagliatore Carlo Cottarelli. Il ministro del welfare Giovannini ha detto sul welfare non si scherza, il ministro all'istruzione Maria Chiara Carrozza dice ma come, abbiamo appena investito nella scuola dopo anni di tagli e ora ricominciamo, mentre Nunzia De Girolamo, ministro dell'agricoltura, avrebbe detto io così perdo la faccia, se tu Letta e Saccomanni non trovate le coperture per esentare dall'IMU i terreni agricoli che resto a fare al governo, così mi dimetto. Insomma, di fronte ai rischi, di fronte alle incertezze dell'IMU, di fronte agli annunci di tagli di Cottarelli, ecco che ci sono il rischio di dimissioni addirittura. Mentre come accogliere il piano di privatizzazioni annunciato da Letta? Privatizzazioni subito! Staremo a vedere, cari italiani, bisogna essere ottimisti, per carità. Certo, il piano di privatizzazioni c'è da un bel po' di tempo, come racconta Enrico Marro a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Quali sono le società che sono ora interessate dal piano? Eni, STM, Fincantieri, CDP Reti, TAG, la società partecipata all'89% da Cassa Depositi e Prestiti, Grandi Stazioni, Enav, SACE. Obiettivo recuperare 12 miliardi di euro. Ci riusciranno? Secondo il manifesto è la sporca dozzina. Per Libero le privatizzazioni di Letta non ci faranno ripartire, staremo a vedere. Ma sono al momento finale l'articolo che vince oggi il premio La Carta Costa. In realtà è un'invettiva anche spassosa, perché l'autore è Vittorio Feltri sul Giornale, che si scaglia contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che siamo un popolo di pigroni. E Vittorio Feltri fa un articolo che inizia in prima pagina e poi è tutta una pagina 19. Noi pigri moriremo presto, ma non sudati. Così Vittorio Feltri. Adesso ci si mettono anche i pediatri a far terrorismo. Secondo i ricercatori, l'assenza di esercizio fisico causa 1.900.000 decessi all'anno nel mondo. Certi numeri provocano il panico in chi sia ipocondriaco o patofobo, tra i quali ci sono io. Poi sentite Feltri cosa scrive. Io sono tra coloro che non frequentano piscine piene di umidità, dannosissima alla salute, preferisco il riposo e odio i ciclisti amatoriali, cioè gli sportivi più irritanti che le tentano tutte per essere travolti dalle auto e purtroppo non ci riescono. Ma Vittorio Feltri, ma come? Si auspica che i ciclisti amatoriali vengano travolti dalle auto? Un mio amico indolente, a chi lo incitava a alzare i glutei dal divano sul quale osava sprofondarsi, rispondeva: fossi scemo, non mi basta star fermo, preferisco l'immobilità. E quindi la mia attività fisica si limita ad alzare un po' il braccio, o meglio il gomito, per bermi qualche bicchiere bianco o rosso. Magari morirò presto, ma non sudato. Ma Vittorio Feltri, un'intera pagina. Tu che sei un grande giornalista, per raccontare raccontare questo anche al giornale, anche Vittorio Feltri non si rende conto che la carta costa. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8 e 20 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io ho letto ieri una notizia che, letta così, mi ha fatto veramente sobbalzare, e per questo abbiamo chiamato il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, a essere con noi. Sindaco, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, salve, buongiorno. Allora, grazie. La notizia che ho letto mi ha fatto sobbalzare perché l'ho letta su, tra l'altro, la firma di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. Un dirigente comunale a Caserta prende 290.000 euro lordi l'anno, più di Angela Merkel, che ne prende 220.000. E allora, sindaco, qui so che lei ha smentito, non è vero? Cioè, com'è questa? Assolutamente, è falso. È falso. È falso, e agiremo, o almeno valuteremo di agire anche contro il giornale, perché francamente in un contesto così difficile dare notizie senza verificarle è, a mio modo di vedere, molto molto quantomeno superficiale. Però, sindaco, sai che ci sono anche dei siti di Caserta, siti online, che dicono, riportano, allora, la stessa. Il comune di Caserta, i nostri dirigenti al massimo prendono, beati loro, perché comunque prendono il doppio di quanto prende un sindaco, prendono intorno ai 110.000 euro all'anno come da contratto collettivo nazionale di lavoro. Poi a questa cifra eventualmente si aggiungono delle somme che derivano da incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, opere pubbliche. E quanto si può arrivare, quindi? No, non arrivano mai a cifre di questo tipo, possono essere 20-30 mila euro in più, 40 mila euro in più, ma sono importi che noi, come per legge, e quindi tutti i comuni danno ai dirigenti per risparmiare, per non dare incarichi in esterno. Sono i classici, quelli che vengono definiti RUP, cioè responsabili di progetto. Questa però, tra l'altro, sindaco, è fantastica. Cioè, mi sta dicendo che si può prendere, perché uno già è pagato 100.000 euro di posizione dirigenziale, però per evitare consulenze esterne si può arrivare a pagare. No, allora le spiego. Allora, intanto i dati dei nostri dirigenti sono sul sito web del comune, come c'è anche il mio stipendio, quindi chiunque può verificarlo. No, allora le spiego, noi siamo un comune in dissesto, quindi comunque questa cosa che è stata detta è un'enorme mega galattica fesseria. Ma detto questo, che cosa succede? Che in un comune in dissesto la legge vieta di dare incarichi esterni. Sì. Quindi vieta comunque di dare consulenze esterne. E sì, questo è un dato, è un fatto ed è un obbligo di legge. Questa valutazione poi si abbina all'altra considerazione che facevo, sì, cioè che ai dirigenti pubblici può essere data la responsabilità di seguire un progetto, quindi possono essere dei RUP, e quindi al compenso base gli si può a volte. Aggiungere. Ma perché secondo lei è normale? È normale aggiungere? Assolutamente no. Io se dipendesse da me, per quanto possibile, o li pagherei quello che prevede la legge, quindi il compenso fisso, quindi sì, questa cifra che è ben alta, oppure in verità darei incarichi esterni, anche perché demagogicamente di moda. Ma invece non dare incarichi esterni e far pagare normalmente il dirigente il suo stipendio e fargli fare anche l'incarico di progettazione, non si può, c'è 100.000 euro. Sono... Secondo me non è una procedura opportuna, ma tant'è vero che noi, le dico la verità, noi di queste cose, di incarichi di questo tipo, non ne diamo assolutamente mai, ma io vado oltre, io li darei in esterno se potessi. Anche perché un dirigente pubblico per tutto è già ben pagato, e al di là di tutto, come nel caso del mio comune dove non abbiamo tanti dirigenti, sì, è già preso da tantissime cose, quindi però, sindaco, la progettazione di una strada o altro. Certo, mi permetta se insisto, perché allora lei smentisce e dice sul sito del comune di Caserta è vero, abbiamo controllato, ci sono tutti i dati, e per esempio vengono citati dall'articolo di Magnaschi, non vengono citati i nomi, ma su alcuni siti locali di Caserta ci sono invece i nomi di questi due dirigenti, Mazzotti e Sorbo, sarebbero loro, almeno in questo io le devo dire che, le dico la verità, quei siti ai quali fa lei riferimento, sì, In passato, non escludo anche nelle prossime ore, sono stati già da noi querelati proprio perché quindi non danno informazioni. Mi auguro che in tempi brevi i magistrati intervengano su questa, ma su anche su altre questioni. Il sito del quale parla, credo di ricordare quale sia, ma chiaramente non lo citiamo, da me è stato querelato una ventina di volte, più da altri. Ecco. Quindi lei smentisce comunque che ci sia un dirigente del Comune di Caserta che possa guadagnare 290.000 euro? Ma non sarebbe... Allora, guardi, forse a queste cifre potrebbero arrivare, ma mi sembrano spropositate, alcuni direttori generali di enti pubblici. Comunque noi per esempio non abbiamo il direttore generale perché ecco. Che noi non... Lei ha fatto riferimento perché credo che oggi anche sul Mattino ci sia, o comunque qualcun altro dice potrebbe invece far riferimento, potrebbe al direttore generale della provincia di Caserta, sul cui stipendio anche ci sono state delle polemiche in passato, ma credo anche delle smentite. No, questo non lo dico, non ho la più pallida idea. No, voglio dire, cifre così alte sono fuori dal mondo e da quello che posso ricordare in anni passati erano cifre che venivano attribuite a direttori generali di enti pubblici, assolutamente non parlo di provincia, che non lo so, non ho la più pallida idea, però le dico che nel nostro comune comunque il direttore generale non c'è, né lo vogliamo prendere, perché io il segretario generale che scelto da me perché la legge mi consente di sceglierlo, che ha un compenso di un certo tipo e a mio modo di vedere deve fare anche il direttore generale. Ma se lei pensa, vedi, a volte ci sono delle storture anche sulle norme, tenga presente che i segretari generali degli enti pubblici hanno una percentuale sui contratti che stipulano. Sì. Anche questa è un'altra cosa che ritengo non giusta, ma lo consente la legge, cioè lo consente un obbligo. Il segretario fa un contratto di pinco pallino, prende una tot percentuale entro determinati limiti. A me quello che interessa come comune dissestato, ma lo farei in tutti i casi, è ridurre al massimo le spese. Tenga presente che nel nostro comune non ci sono più nemmeno le famose posizioni organizzative che erano delle gratificazioni. No, ma esatto, e comunque lei dice questa cifra. Tra l'altro è uscita di recente la notizia che i dirigenti pubblici italiani sono pagati il triplo rispetto alla media europea e questa cifra è in base alla legge, dice tutto pubblicato sul sito, è troppo noi però. Applichiamo i contratti di lavoro. Allora io posso dire quello che prendo io, che un sindaco prende intorno, ma lo disse, voglio dire, Renzi qualche tempo fa, mi pare una trasmissione Rai. Allora, il sindaco di Caserta prende intorno ai 3.000 euro, 3.200 qualcosa. Netti, 3.200. Il compenso del sindaco, sì. Ah, è inutile dire che questi 110.000 euro ai quali facciamo riferimento, che fanno capo al contratto nazionale di lavoro, sono lordi. Sì, mentre invece i 3.200 suoi sono netti? 3.200. Sono netti. Netti. E cioè, dice, io guadagno meno di un dirigente, insomma. È lavoro, purtroppo... Però nessuno mi obbliga, insomma. No, esatto. Stia attento, sindaco, perché comunque 3.200 euro al mese è uno stipendio che in Italia non si prende nessuno. No. Infatti. Io facevo la proporzione col dirigente, nel senso che dico che il sindaco è ben pagato. Lavora molto di più del dirigente. Pagato la metà, ma meno della metà rispetto ai dirigenti, che sono comunque pagati troppo. Sì, senta, sindaco, è stato molto gentile. Io nel salutarla, tra poco, dopo la pubblicità, parlerò di prostituzione, perché è un tema. Io l'avevo chiamata su questo tema, perché lei era uno di quelli che dice io vorrei i quartieri, sarei disponibile. È ancora dell'idea l'ipotesi di quartiere a luci rosse, zone rosse, insomma... Guardi, allora, io da quando sono amministratore mi sono reso conto di una cosa, tra le tante. Esiste una legge della domanda e dell'offerta. Da noi vendono i CD abusivi in alcune zone, noi combattiamo, ma c'è gente che li compra, altrimenti se no non li venderebbero. Il mercato del sesso è un mercato che esiste perché c'è una domanda, ma c'è un'offerta, ma c'è anche una domanda. Allora, che cosa succede? Le ordinanze che noi facciamo vengono anche rispettate, ma non facciamo altro tra comuni limitrofi che spostare la prostituzione da una zona a un'altra, a seconda da dove, da dove venga l'ordinanza. Quindi se l'ordinanza la fa Caserta, le prostitute si spostano a San Nicola. Noi facciamo una lotta senza quartiere contro queste cose, però l'altra volta le ho detto e le dico anche adesso che forse una riflessione su questi temi si deve potrebbe essere fare. Fatta. Si potrebbe fare. In mezzo alla strada è uno schifo e certo non si può vivere di ordinanze. No, ma è chiaro, nostre... però la riflessione, guarda, è stata fatta tra l'altro da un sindaco che tornerà ai nostri microfoni, che addirittura ha tentato una raccolta di firme per riaprire, abrogare parzialmente la legge Merlini, riaprire le case chiuse, per fare un referendum popolare, doveva raccogliere 500.000 firme. Tra poco cercheremo di capire se ce l'ha fatta, se questo progetto è naufragato oppure no. Io intanto, sindaco di Caserta, la saluto, Pio Del Gaudio, la ringrazio, insomma smentisce che ci sia un dirigente di Caserta che guadagna 290.000 euro, e questo ci rincuora, ci rassicura. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti. Allora, ieri il settimanale Panorama è uscito con un'inchiesta dal titolo "Le case chiuse riaprono su internet", facendo un censimento di quante sono le persone che si prostituiscono e lo fanno utilizzando soprattutto il web, i contatti, il computer. Chi parla di una cifra di 80.000 almeno in Italia, chi aumenta anche questa cifra. Sta di fatto che, insomma, il tema è sempre quello lì. Noi di recente avevamo chiamato il sindaco di Mogliano Veneto in provincia di Treviso perché aveva fatto una raccolta firme, aveva lanciato una raccolta firme per indire un referendum e abrogare parzialmente la legge Merlina e di fatto riaprire le case più chiuse, quindi regolamentare la prostituzione. È il sindaco di Mogliano, Giovanni Azzolini, che saluto, ben ritrovato sindaco, eccoci, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. Così come io voglio salutare anche Mirta Dapra, che è responsabile del progetto Prostituzione e Tratta del gruppo Abele. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, intanto sindaco, la notizia non è che è uscita moltissimo, però mi pare di capire che quella raccolta firme sia fallita tecnicamente, così non ce l'avete fatta a raccogliere 500.000 firme. Siamo andati vicini al traguardo, ne abbiamo raccolte oltre 400.000, 410, perché tanti comuni d'Italia non hanno messo a disposizione dei cittadini neppure il modulo. Per esempio, a tutt'oggi Napoli deve ancora stampare e mettere a disposizione il modulo per i tanti cittadini che volevano sottoscrivere. Non è fallita, abbiamo perso una battaglia, ma attualmente stiamo movimentando tutte le regioni d'Italia per cercare di poter lo stesso portare a termine un referendum che è molto sentito dalla gente. Ai banchetti venivano centinaia di persone a firmare, tantissime donne, perché se 5 regioni si esprimono, allora il referendum si potrà fare finalmente. Esatto, quindi diciamo è fallita l'iniziativa 500.000, ma la dirottate così, 5 regioni possono chiedere per indire. Su quali regioni potete pensare di contare? Il Veneto? Beh, guardi già Clodovaldo Ruffato, che è il presidente del Consiglio regionale Veneto, ha convocato tutti i presidenti dei consigli regionali e 5 più o meno dovremmo averle raggiunte, che sono quelle principalmente al nord, a cui si aggiungono alcune piccole regioni del sud. Ma nei prossimi giorni, proprio il 6 di dicembre, dovremmo sapere quali sono i consigli regionali che scriveranno all'ordine del giorno questa proposta. Insomma, quindi è una vicenda che va avanti. Lei ha letto l'inchiesta di Panorama? Sì, no? Lo so. No, la leggerò subito adesso. Però insomma credo che si scopra l'acqua calda, insomma, di fatto esiste la prostituzione, è sempre esistita, attualmente esiste sia nelle strade e si promuove, sia nelle case e si promuove nel web, che soprattutto nelle strade, e la vediamo tutte le sere tornando a casa in macchina. E allora io, Mirta Dapra, intanto cerchiamo di capire i dati. Non è facile ovviamente censire una cosa del genere, credo che lei abbia fatto una ricerca a tuttiacasa.it, almeno leggo ieri da Panorama. Cerchiamo anche di capire il tema annoso, la questione, perché ci si snoda sempre su quello. Chi è favorevole dice, insomma, bisogna regolamentare un'industria e un mercato che è diffuso, diffusissimo. Chi è contrario dice, ma no, stiamo cercando di regolamentare un qualcosa, non tenendo conto che la maggior parte delle persone che si prostituiscono sono sfruttate. E anche su questo c'è un grande dibattito, se sia vero o no. Il suo parere? Ma la percentuale più alta sono indubbiamente persone sfruttate, e su questo concordano tutti. Poi sulla percentuale si può variare. Dopodiché credo che variare come? Più o meno c'è un'indicazione? Da chi dice che è il 90% a chi dice che può essere il 60-70%. Comunque la maggior parte delle persone sono che ci sono oggi sulla strada e nelle case sono persone sfruttate, perché vorrei richiamare un attimo al cambiamento del fenomeno negli anni. dopo la legge Merlin c'è stato un riversarsi della prostituzione di allora nelle case e nelle strade. Dopo una decina di anni, grazie anche all'aiuto della legge Merlin alle donne che volevano cambiare lavoro, una volta tolta la schedatura, che è stata la grande innovazione e la grande conquista della legge Merlin, perché ha tolto la schedatura sul corpo delle donne per motivi di polizia e di ordine sanitario, le donne italiane che si prostituivano negli anni si sono ridotte a pochissime persone, infatti nessuno se ne lamentava più. Per il motivo qual era? Che le donne hanno trovato altri non più schedate, hanno potuto trovare altri lavori e lavori migliori. Per cui la dimostrazione che alle donne, se si dà un, e a chi si prostituisce, possono essere anche uomini e transessuali, se si dà un'altra possibilità di scegliere, la possibilità di avere un altro lavoro, non la maggior parte delle persone sceglie. Però quello, c'è una percentuale di non sfruttati, identifichiamola, diciamo, in maniera anche pessimistica, il 10%, se prendiamo per buona ecco, 90%. Allora, la percentuale delle non sfruttate comunque, e se voi andate a vedere anche i documenti e le proposte fatte anni fa dal Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute e dal Movimento Identità Transessuale, anche loro dicevano che anche se c'è una parte di persone che vorrebbe, potrebbe mettersi a considerarlo un lavoro, comunque non chiede assolutamente la riapertura delle case. Forse chiude. Perché dovrebbero pagare tasse così. No, non è questo il motivo. Il motivo è la schedatura e il fatto che una che donna si viene sapere. Schedata vita. Che così ecco. Si viene a sapere che fa quel lavoro. Però mi scusi, guardi, so che sullo sfruttamento e le percentuali, per esempio il sindaco Azzolini ha delle idee diverse, però qua nessuno sa la percentuale giusta, Azzolini, la questione. Beh, guardi, io ho altre percentuali, derivano anche dagli operatori di strada che sono presenti sulle mie strade e mi danno una realtà completamente diversa, ma lasciamo perdere, secondo me ormai la maggior parte non è sfruttata più, anzi si organizza proprio in quasi una sorta di cooperative che gestiscono il fenomeno. Cosa non fanno? Sicuramente non pagano le tasse, perché non possono essere registrate, ma ciò non vuol dire che noi vogliamo schedarle. Vogliamo solamente dire che chi fa prestazioni sessuali e ha un'entrata da questo è giusto che come gli altri cittadini paghi le tasse, e non lo può fare adesso perché non può essere registrata. Cosa vuol dire? Che non può avere una partita IVA. Questo mi sembra assurdo in Italia, però effettivamente in Italia, sindaco, ci sono persone che magari fanno questo diciamo lavoro, ma se si venisse a sapere ufficialmente non sarebbero molto contente di farlo sapere all'intero mondo, e quindi non lo farebbero se dovessero dichiararlo pubblicamente. Ma non hai detto che si dichiarato pubblicamente, l'importante è che sia dichiarato di fronte al fisco, per esempio. L'unica cosa è questa che chiediamo, dato che in Italia prostituirsi non è reato, è un'attività legittima, lo dice la legge Merlin, quindi a questo punto è meglio regolamentarla, anche se la percentuale, diciamo così, può essere piccola, e non è così delle persone non sfruttate. È giusto che sia regolamentata. Non so, Mirta da Pra, la regolamentazione non ferma questo sfruttamento? È anche questo un tema su cui si dibatte molto. Regolamentare non potrebbe stroncare queste tratte? Assolutamente no. Tanto che tutte le associazioni che lavorano sul tema della prostituzione, accanto alle persone che si prostituiscono, il comitato e le associazioni che lavorano sulla tratta, sono assolutamente contrarie a questo tipo di cosa. Perché? Perché la legge Merlin è stata e è tuttora una legge geniale, nel senso che ha messo assieme diversi aspetti, cioè ha ritenuto lo scambio tra due persone adulte, l'ha relegato a una sfera privata. Per cui ha tolto la schedatura, quella che c'era prima, che si riproporrebbe con questa proposta, diciamo, di regolamentazione, perché la regolamentazione non può essere fatta per qualcuno sì e per qualcuno no. Quelli che non vogliono diventano degli evasori fiscali, se è una cosa legata, in questo caso come dite voi, alle tasse. A quel punto lì però le cose sono cambiate e giustamente si dice la legge è del 58, però non è rimasta da sola, sono usciti altri due dispositivi nel 98 sulla tratta degli esseri umani e nel 2003 sempre sulla tratta degli esseri umani. Noi abbiamo avuto un richiamo dalla Commissione europea perché il fenomeno è in aumento e il contrasto in diminuzione, e non si sta facendo niente né sulla tratta né sulla prevenzione, su tutti gli interventi sì. anche di prevenzione sanitaria. Dico un'altra cosa, oggi questo è un altro tentativo che ogni tanto esce del controllo del corpo delle donne e del tentativo di regolamentare in questo modo, sì. ma oggi le donne non accettano più questo e neanche le associazioni che se ne occupano, perché uno, abbiamo avuto la dimostrazione che quando dopo il 98 che è uscito l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione si è applicata per qualche anno, noi avevamo il fenomeno in diminuzione e poi lo Stato ha cominciato a disinvestire e allora adesso siamo di nuovo con le organizzazioni criminali che rialzano la testa, e due, oggi le donne, la maggior parte delle donne non accetterebbe più questo, per cui chiede il controllo anche sui clienti, questo... e allora voglio vedere come andiamo. Il controllo sui clienti si apre un'altra questione. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ritorniamo su questo tema col sindaco di Mogliano Veneto Giovanni Azzollini e con Mirta Dapra del gruppo Abele. Allora, prima di tornare dal sindaco vorrei sentire un ascoltatore, Sergio da Roma, che ci ha chiamato su questo tema. Sergio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Chiamavo per andare a rinforzare l'esigenza che viene espressa dal sindaco sulla necessità di regolamentare sì, la certo. punta dell'iceberg e l'ordine pubblico e il trattamento fiscale dell'attività. Invece quello che secondo me è poi il tema caldo è contrastare la criminalità organizzata con tutto ciò che significa, che diciamo, da Roma in giù è estremamente evidente e palpabile. Quindi lei dice che cioè il sindaco, mi scusi se ho capito bene, dice pensa solo alla questione economica, fiscale e di ordine pubblico, ma non al resto? Ha ragione, lo condivido. C'è una problematica ancora più ampia che forse è quella che rende così difficile approcciare questo tema, è che si dovrebbe fare un serio contrasto alla criminalità organizzata. Ah, perfetto, perfetto. Questa è l'obiezione che è un po', guardi Azzolini, l'obiezione anche di Mirta Dapra, cioè a dire non si, in realtà è una battaglia sul corpo delle donne, insomma risponda sindaco. No, assolutamente no, le donne che sono sfruttate è giusto che abbiano un percorso di recupero e questo noi vogliamo farlo. È giusto che abbiano anche la possibilità di accedere ai controlli sanitari e la legge Merlin glielo impedisce. Non parliamo di questo, noi parliamo di chi in realtà, e continuo a dire, esiste chi vuole farlo di professione e deve avere dei luoghi dove può farlo in modo regolamentato, controllato e anche sicuro. Questo diciamo, se non facciamo nulla, veramente questo fiume di denaro in nero che gira va a alimentare altri mercati, allora sì, attira la criminalità, attira gli sfruttatori, attira chi dopo veramente deve andare in galera per... Ma noi non parliamo di questo tipo di persone, noi parliamo di chi ha scelto di fare questo mestiere, ahimè ce ne sono e ce ne sono ancora tanti in Italia, ce ne saranno sempre dopo, che noi dobbiamo promuovere altri valori, è vero, e lo facciamo anche noi, ma tantissime sono le associazioni che stanno con noi combattendo questa battaglia. Lei dice dobbiamo, per esempio, si può, la Lega Disabili, La Lega Disabili è la prima che si è schierata con noi. Cioè lei dice si può lottare per i diritti e soprattutto bisogna stroncare il fenomeno eccetera, però non vuole uno stato etico che giudichi per esempio il fatto che una persona liberamente si possa prostituire e quindi... Ma noi vogliamo uno stato che regolamenti le cose. Guarda, ma mi dica un po', ha visto tanto... fare come in Germania, come in Austria, dove si è deciso che in alcuni quartieri ci si può prostituire e si è sicuri di farlo, e una marginalità non può impedire all'altra comunità di vivere, perché veramente la sera, oltre che essere poco decorosi, molti quartieri italiani adesso diventano, molte strade italiane diventano anche invisibili. Senta sindaco, ha trovato del bigottismo in questa sua battaglia, una battaglia insomma tanta ipocrisia e spesso discorsi da salotto, insomma discorsi che sono fuori dalla realtà e troppo spesso distanti da quelle che sono le esigenze, le problematiche della gente comune. Si discute sempre in modo distorto, si discute sempre solo di sfruttamento, che esiste, la legge è ancora più forte, è vero, c'è una legge che finalmente sanziona ancora più pesantemente la messa in schiavitù e viene applicata, ma noi non stiamo parlando di questo, parliamo di tutt'altra cosa, di un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, e il bigottismo è proprio questo, fare finta che non ci sia quando sei in macchina, girare lo sguardo dall'altra parte e invece sotto gli occhi di tutti, per le corna e risolvere finalmente. Vorrei capire, Mirta da Pra, quei paesi citati come Austria, Svizzera, Germania, quelli più vicini a noi geograficamente, sono esperimenti allora sbagliati secondo lei? E sono esperimenti che ciclicamente poi ritornano, se si guarda la storia, le cosiddette case chiuse, i cosiddetti quartieri a luci rosse progressivamente poi cambiano. Nel tempo le case chiuse sono state chiuse di nuovo dalla Francia, dall'Italia ai tempi, perché comunque si era visto che incrementavano la sifilide a quei tempi. Oggi si parla di ghettizzazione delle persone. Mi spiace che in questo discorso che fa il sindaco, per esempio, non sia stato coinvolto il Comitato per i diritti delle prostitute, che sono delle persone che oggi, a differenza di anni fa, per fortuna hanno preso la parola e hanno diritto di parlare in proprio, e loro stesse comunque nelle proposte a cui facevo riferimento prima si dichiaravano contrarie a questo. Quello che invece io ritengo giusto, una preoccupazione reale che pone il sindaco, è il discorso del guardarsi attorno e di vedere un fenomeno che inquieta. Però questo un fenomeno che molto quasi tutto trafficato, e è sul traffico che l'Italia non sta facendo la sua parte, perché noi siamo a 3-5 giorni dalla scadenza dei progetti che lavorano sulla prostituzione e sulla tratta, e a oggi non si sa se questi progetti verranno rinnovati. Mi scusi da Pra, ma su questo, cioè, il sindaco è il primo a dire, e tutti sono d'accordo, bisogna stroncare il fenomeno. La politica deve spendersi, perché lì togliamo la gran parte della prostituzione e del traffico. Noi abbiamo, rispetto al discorso delle strade, che è quello che poi di solito inquieta e fa partire queste campagne, per semplificando, perché il tema è complesso, e ripeto, la schedatura sulle donne la maggior parte delle persone non la vuole, per cui lui non si fa portavoce in questo senso della richiesta di chi vive questo problema, ecco. Abbiamo l'esperienza che è un problema reale, allora io su questo, voglio dire, con Azzolini ci starei a fare un discorso del problema, del disturbo tra virgolette che può dare il fenomeno a volte in certi pubblico, chiaro. Venezia è stata la dimostrazione, Venezia è quella che ha fatto scuola in Italia su questo. Un quartiere ha un problema, si ragiona con le persone, si ragiona con le associazioni, il comune istituisce un servizio e non un progetto, per cui lo mette nel tempo, e poi eventualmente si può fare anche uno spostamento, si può fare in modo che le persone si vestano di più, cioè la mediazione dei conflitti, la mediazione sociale è giusto cercarla, mi sembra di capire, insomma, che queste siano le critiche, guardare un po' il tema in modo pragmatico, cioè volerlo risolvere, regolamentare, ma sindaco, le accuse di non volere fare le cose anche più pratiche di contrasto alla criminalità organizzata, per esempio. Però facciamo così, per il momento ci fermiamo, il tempo è finito, ma tanto, visto che ci ha detto sindaco Azzolini che il 6 dicembre, insomma, le regioni si troveranno, la vicenda va avanti da 50 anni questo dibattito, figuriamoci se non lo portiamo avanti anche noi. Per il momento vi ringrazio e ci risentiremo, certo. Giovanni Azzolini, sindaco di Mogliano, e Mirta da Pra, che ricorda, responsabile del progetto prostituzione tratta del gruppo Abele. Ci fermiamo qui anche per la settimana. Questa è 24 mattino, da Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi, dal nostro alpino Peter Bescapè, da tutti noi l'appuntamento viene rinnovato a lunedì mattina alle 6:30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 mattino.